Se piove, che si fa? Si va a ballare. Ma ballando che si fa? Non si sa, non si sa. Mistero. Qualche bacio scoccherà, la per là, la per là. Oh caro, sai che si fa? Con le fanciulle. Se sono belle, che si fa? Si fa l'amore. Ma ballando che si fa? Non si sa, non si sa. Mistero. Qualche bacio scoccherà, la per là, la per là. Oh caro, sai che si fa con le fanciulle? Se sono belle, che si fa? Si fa l'amore. Ah. Oh. E se sono brutte? Buonasera.